Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Molto bene oggi le borse, bene l'asta dei titoli di Stato, scusatemi, italiani, ed è la seconda giornata di fila che i nostri interessi, quindi i rendimenti, e quindi quello che deve pagare l'Italia per trovare finanziatori sul suo debito, continuano a calare. Lo spread è sceso, quindi la differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania è scesa a 310 punti, siamo ai minimi dal marzo del 2012, chiaramente, poi leggermente risalito a 323 punti. Dicevo, bene il collocamento obbligazionario di oggi, ne parleremo durante le notizie in breve, con rendimenti in calo. Ancora, per quello che riguarda la borsa, Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 10,15%, fortissime oggi le banche, Popolare Milano più 8,49%, UbiBanca più 7,41%, Banca Popolare più 4,60%. E ancora Mediolanum più 4,26, Unicredit più 4, Intesa più 3,90%, come vedete sono tutti rialzi superiori al 3%. Tra chi perde non c'è nessuno oggi, meno 0,12% Salvatore Ferragamo, poca cosa. Bene anche altri settori industriali, penso a Ansaldo STS che è fortissima, più 6,22%, Finmeccanica più 6, anche di questo parleremo. Ieri vi è stato un acquisto da parte di Siemens di una società che opera nel settore di Ansaldo, e i multipli, quindi quanto è stata pagata, sono stati molto generosi, quindi questo ha fatto aprire anche a ragionamenti sull'eventuale cessione di Ansaldo STS. Finmeccanica ieri ha collocato un'obbligazione da 600 milioni, quindi va bene. Dicevo, Telecom Italia molto forte, più 4%, si avvicina alla data del consiglio di amministrazione. E di negativo c'è praticamente nulla. Complessivamente la borsa guadagna il 2,66%, è la migliore in Europa, più 1,44 Parigi, più 0,80 Francoforte, Londra più 1,30, l'America più 0,40, euro a quota 1,29,79. Partiremo di nuovo con la lunga trattativa sull'ILVA, poi ci sposteremo sulla giornata della ricerca e dell'innovazione. E concluderemo oggi con un racconto che speriamo essere costruttivo e anche edificante, se si può usare questo termine, perché è racconto di chi di fronte a moltissimi sms, mail, messaggi su Facebook che ci arrivano di persone in difficoltà economica perché hanno perso il lavoro e magari hanno anche un'età non più giovane, in difficoltà perché l'impresa, la società rischia di chiudere, perché non vendono meno, perché non riescono a trovare lavoro, di chi è passato da una vita da dirigente, si è trovato in mezzo a una strada, letteralmente, nel senso che è diventato un clochard, un homeless, chiamatelo come volete, e da lì ha avuto una storia di riscatto, e a noi interessa in questo momento così difficile, e che resterà difficile anche per i prossimi mesi, come abbiamo raccontato in questi giorni, dare anche qualche messaggio che vada al di là del semplice dato economico e congiuntura economica. Ieri abbiamo raccontato la storia di una catena di solidarietà assolutamente bella, umana, spontanea, per una donna che era morta, ricordate la puntata, Isabella Viola, sulla metropolitana, 34 anni, 4 figli, si svegliava tutte le mattine alle 4, e abbiamo detto una di quelle tante facce che vediamo quando prendiamo la metropolitana o l'autobus la mattina, e abbiamo raccontato della solidarietà che si è sviluppata nel Tuscolano, dove aveva aperto questo bar con una cassetta per raccogliere i soldi, dove si è formata una fila di pensionati, studenti, abitanti del luogo vicino all'edicola, e abbiamo invitato anche la politica, senza troppa retorica, a andare a vedere queste cose, a capire come funziona la catena della solidarietà in questo paese. E oggi vorremmo dare un altro messaggio, il messaggio di chi ha toccato veramente il fondo, più fondo di così non si può, ed è riuscito a rialzarsi, perché si può, si deve. rialzarsi, ci si deve rialzare, e Disperati mai, lo ricorderete, è e resta anche il nostro invito, oltre che una casella elettronica dove scrive le vostre storie, perché torneremo sul tema, stiamo organizzando ancora altri appuntamenti su questo. E poi parleremo anche delle dichiarazioni del Premier Mario Monti, che ha corretto radicalmente il tiro sul sistema sanitario nazionale dopo le frasi di due giorni fa, che l'aveva definito difficilmente sostenibile nel futuro, osserva l'ingresso dei privati. Oggi Monti ha corretto tutto, anche il ruolo dei privati, il che non vuol dire che non si debba pensare a un sistema sanitario nazionale sempre più costoso, perché la popolazione invecchia, ma ripeto, c'era sembrata modestamente molto estemporanea quella frase, visto il periodo che attraversa il paese, visto le difficoltà breve, brevissimo, visto che l'economia, contrariamente a quanto dice il governo, non farà meno 0,5 l'anno prossimo l'Italia, ma farà almeno meno 1%, dato dell'OCSE, e forse mettere altro pessimismo, altro allarme non serve, già con gli esodati abbiamo creato un bel casino, hanno creato un bel casino, e forse è il caso di rasserenare il paese più che spaventarlo sulla non sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Mi sembra che oggi Monti su questo corregga moltissimo il tiro. 349-238-6666 per i vostri sms, Facebook come sempre per chi vuole scriverci attraverso la rete. Rapidamente le notizie in breve. Partiamo da subito dall'asta del tesoro. Attenzione, ieri collocati 7 miliardi, oggi 6 miliardi, quindi tanta roba. Ebbene, anche oggi gli BTP a 10 anni con scadenza 1 novembre 2022 hanno avuto tassi in calo, anche i quinquennali con scadenza 1 novembre 2017. I tassi sono passati dal 4,45 al 3,23. E nel dettaglio 3 miliardi di BTP a 10 anni. E al 4,45%, quasi 0,5% in meno, era oltre il 5%, era quasi 5% rispetto a fine ottobre, e i BTP a 5 anni rendono il 3,23% contro il 3,80% del mese precedente. Non a caso lo spread poi è sceso a 310 punti devo dire, insomma, che le banche, perché guadagnano così tanto? Perché hanno in pancia tantissime obbligazioni italiane collocate nei mesi scorsi. È chiaro che quando i rendimenti scendono loro si vedono aumentare i guadagni. Cioè, chi ha comprato, per dire tutta, ma questo vale anche per un privato, un BTP quando lo spread era 400-500, adesso ha un BTP che rende tanto, tantissimo rispetto ai rendimenti di adesso, e speriamo che non si, per il paese, non si tornino più a vedere quei rendimenti di 2-3 mesi fa. Io vedo che c'è già polemica, ma Monti non ha corretto nulla, ha solo ripetuto. La smette di fare campagna elettorale. No, guardi che Monti ha corretto, e adesso lo fermo ascoltare. Un po' di ottimismo, guardate che qualche notizia di ottimismo c'è, questa del fermo restando una situazione non facile. L'andamento del nostro debito, del collocamento del nostro debito, sta andando bene. Io spero che nell'intervista che faremo alle 18 emerga anche un ottimismo della volontà, anche se ci può essere del pessimismo della ragione, per citare Gramsci, perché insomma i numeri sono numeri, però la volontà è un'altra cosa. Ancora, per quello che riguarda altri elementi, avremo anche qualche dato positivo sugli investimenti in ricerca e sviluppo in questo paese. Insomma, li cerchiamo un po' con lumicino, ma li cerchiamo i casi positivi. Detto ciò, noi iniziamo a dire bisogna essere ottimisti per forza, perché qui non facciamo né gli ottimisti né i pessimisti, cerchiamo di raccontare quello che vediamo e quello che sta capitando. E allora, come ieri, un po' di campane, così partiamo, che queste aste vanno benissimo. Pensate appunto ai minimi dall'aprile, i rendimenti dei BTP, questa è un'ottima notizia, e da marzo lo spread, mi sembra proprio che si possa addirittura, guardate, sto controllando meglio i rendimenti sia dei BTP a 10 anni che dei BTP a 5 anni sono ai minimi dal novembre del 2010, cioè da prima che partisse l'attacco al debito italiano gli spread schizzassero, mi riferisco quindi a maggio giugno del 2011, quindi siamo tornati a un periodo super precedente all'attacco ai debiti sovrani, quindi le campane ci stanno tutte, vai. Andiamo avanti con il resto, le materie prime, l'oro è stabile a $1,720, il petrolio a $87 al barile a New York, leggero rialzo. E poi un tema che abbiamo affrontato a metà settembre, quanto la speculazione finanziaria, i derivati, amplifichino e creino problemi sui prezzi delle materie prime. Cioè, un conto che il prezzo del grano, mais o frumento, che vogliate chiamarlo, della soia, del cotone, salgano per la domanda, altra cosa è se l'investimento speculativo di futures, e quindi chi non lo ritira mai questo grano o questa soia, ma fa solo operazioni di carta su carta e quindi scommette e poi specula, questo ha un effetto amplificatore delle variazioni dei prezzi e ha creato grossissimi problemi ai paesi in via di sviluppo, dove iniziano a esserci scarsità di farina e di generi alimentare di prima necessità. Dicevamo che insomma già ne abbiamo avuto abbastanza dei futures, della speculazione forse nata sui titoli di Stato piuttosto che titoli di borsa, mancava anche solo quella sui generi alimentari. A suo tempo un insieme di banche tedesche decise di sospendere, eravamo a metà settembre, le operazioni scusatemi, di derivati sulle materie alimentari. Anche Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno investito massicciamente nel settore delle commodities agricole, da sole fanno il 70% degli scambi, le banche d'affari americane, artefici del disastro del 2008, e anche Barclays e Deutsche Bank. Allora, Deutsche Bank già a settembre disse che stava per uscire da questo settore perché il danno d'immagine rischiava di essere molto forte. Ed è giusto che si mobilitino le varie onlus o ONG contro questo. Oggi anche la Barclays ha detto che sta valutando la sospensione delle sue operazioni di trading sui prodotti agricoli a causa, pensate, dei danni che questa attività potrebbe causare alla sua reputazione. Vedete che poi quando si creano i gruppi di opinione e via rete, via web, dove volete, poi sono più forti di tante class action delle volte, perché la banca, pur di non perdere reputazione, esce da un settore che danneggia la sua immagine. Quella della Barclays è già danneggiata dallo scandalo LIBOR, ma vabbè. Pensate che secondo il World Development Movement, Barclays ha guadagnato circa 630 milioni di euro in 2 anni speculando sui prodotti alimentari senza mai comprarli, solo speculando. Goldman Sachs ha guadagnato 1 miliardo in 2 anni speculando sui prodotti alimentari. Il valore dei contratti derivati, quindi dei futures, delle scommesse carta su carta sui prodotti agricoli, ammonta a $150 miliardi, e negli ultimi 5 anni, da quando è scoppiata la crisi, da quando non sono più riusciti a mettere in giro prodotti tossici su altro, sui mutui, sui titoli di Stato, sulle obbligazioni, si sono concentrati, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, sui derivati di origine alimentare, e il valore è appunto più che raddoppiato, da 75 a 150 miliardi. L'impennata dei prezzi nel 2010 ha fatto precipitare nella povertà circa 44 milioni di persone. Ora, nessuno vuole essere talebano sulle cose, però torneremo anche sul tema più avanti. Però uno deve anche chiedersi, visto che qua deve cambiare tutto, non è una crisi, è un cambio strutturale, un cambio di paradigma, se è corretto continuare ad accettare che banche d'affari guadagnino queste cifre speculando su generi di prima necessità per centinaia di milioni di persone al mondo. Non penso di essere moralista o bacchettone, no? cioè voglio dire, ragioniamo, o bisogna, o loro sono intoccabili. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays e Deutsche Bank da sole, e JP Morgan, scusatemi, controllano il 70% degli scambi relativi ai prodotti agricoli. Secondo me non è, si può usare il termine morale, non è morale, è immorale che Goldman Sachs guadagni $1 miliardo speculando su prezzi di materie prime che non acquista, mentre questo fa precipitare dalla povertà 44 milioni di persone. Ma sapete com'è, il modello è sempre quello. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Era un po' che non tornava Gordon Gekko nella prima versione. Andiamo avanti, andiamo avanti. Buone notizie del PIL americano, è cresciuto più del previsto, era atteso il dato, ma oggi ce la conferma, più 2,7% contro un 2 previsto inizialmente. E dall'Argentina, ieri ce ne siamo occupati, anche ieri, è arrivata la notizia che la Corte d'Appello americana ha rinviato la sentenza di rimborso per $1.3 miliardi che l'Argentina dovrebbe dare a due fondi speculativi americani. E in questo modo l'Argentina ha più tempo per difendersi dalla sentenza, cioè fino al 27 febbraio. Allora, Fondo Monetario sulla Grecia. L'accordo è significativo, ma attendiamo i dettagli. L'accordo tra la Grecia e gli altri paesi europei. Mentre Moody's dice, attenzione, l'intesa europea sul debito della Grecia porterà sollievo all'economia greca a corto di liquidità, ma il peso del debito pubblico resterà insostenibile. Ora, io continuo a ritenere che quando la Banca Mondiale, Moody's, cioè questi che parlano, abbiamo letto in settimana le dichiarazioni del capo economista della Banca Mondiale, vuol dire, terroristiche, siamo seduti su una bomba che è pronta a esplodere nel 2015 senza spiegarci cosa fare, anche Moody's, ma voglio dire, il debito greco è insostenibile, perfetto Moody's, allora ci devi dire, visto che fai dai rating, farai anche l'analisi e becchi soldi per questo, che cosa dovrebbe fare la Grecia? Cioè, sarebbe importante ricevere da Moody's l'indicazione, state sbagliando tutto con la Grecia, la state facendo morire lentamente invece che salvarla. Questa è un'indicazione. Dire che il peso del debito rimarrà insostenibile anche dopo l'accordo significa solo creare altro terrorismo e significa, per quel poco che vale, beccarsi il nostro gufo in versione autunnale. Veniamo al primo tema, la sanità e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Monti ha detto infatti, attenzione, Mario Monti ha corretto, affermare che la necessità di rendere il servizio sanitario pienamente sostenibile non ha nulla, proprio nulla a che vedere con la logica della privatizzazione. L'eccellenza sta anche nel pubblico e non sempre il privato è immune da scelte non ispirate alla competenza. Beh, insomma, qualche scandalo nel settore privato l'abbiamo visto, non ispirato alla competenza, qualche buchetto, il miliardo del San Raffaele non ispirato certo alla bravura dei medici ma ai deliri faraonici di Don Verzè e compagnia, no? Quello ed è uno dei casi. E Monti ha aggiunto, tutti hanno diritto alla salute, è una garanzia di uguaglianza, sì, però in questo caso scopre la Costituzione il Presidente del Consiglio. la salute pubblica si preserva solo con l'innovazione. Però il presidente della conferenza delle regioni, Vasco Errani, ha detto: attenzione, chiediamo un incontro al premier Monti per assicurare i servizi fondamentali ai cittadini, tra cui la sanità. Diversamente sarà lo Stato a dover rispondere a questi servizi. Sentiamolo al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Chiediamo un incontro urgente col Presidente del Consiglio per assicurarci che attraverso un confronto e una leale collaborazione ci siano le condizioni per erogare i servizi fondamentali per i cittadini, che con l'attuale legge di stabilità tali condizioni non ci sono. Diversamente, per le regioni diventa chiaro che è lo Stato che sarà responsabile di rispondere su questi servizi fondamentali. Siamo a un punto cruciale, vogliamo interpretarlo con rigore e serietà, ma è giusto che ci siano risposte nuove. Per questo chiediamo al Presidente Monti un impegno nuovo. Occorre intanto riportare almeno le risorse al fondo del 2012, perché noi stiamo parlando di una riduzione secca del fondo rispetto al 2012. È la prima volta che questo succede nella storia di questo paese. Non è sostenibile. Tutte le regioni rischiano il default. E questo rappresenta per il paese, per il governo e per lo Stato centrale un problema enorme, una sconfitta, un passo indietro rispetto al patto della salute, che pure ha consentito di governare la spesa sanitaria, così come ha sottolineato la Corte dei Conti più volte. Per favore, non facciamo passi indietro, ma troviamo il modo per garantire questi servizi. Ora chiariamo un principio: la spesa sanitaria italiana è assolutamente in media, anzi leggermente sotto la media europea, quanto percentuale del PIL. Poi, che come spesso accade nella nostra pubblica amministrazione non sia una spesa spesso sempre produttiva è un conto, è un paio di maniche, e devono funzionare meglio gli ospedali, essere più efficienti, accorpare quelli inutili. È inutile avere ospedali che non sono di eccellenza, è meglio avere dei hospital e quant'altro, ne abbiamo parlato molte volte. Ma dire che la spesa sanitaria italiana non è sostenibile, non c'è un elemento, una cifra. La popolazione invecchia anche negli altri paesi, la percentuale di spesa sanitaria sul PIL è leggermente sotto la media europea. Faccio solo notare che anche il governo, con la legge di stabilità, ogni volta che c'è da trovare dei soldi in questo paese si tagliano alla sanità, un po' all'istruzione e alla digitalizzazione del paese. Poi però non mi si venga a raccontare che questo è un paese che deve investire sul suo futuro, perché se tu tagli l'innovazione, poi ne parleremo di innovazione digitale, tagli l'istruzione e tagli la sanità, ora voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Non si riesce a tagliare la mole di 170 miliardi di spesa pubblica all'anno. 400 milioni ha trovato Bondi, 400 milioni di spending review su 170 miliardi di spesa. Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, sempre sulla sanità, sempre al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Per il momento noi chiediamo un confronto sulla base della razionalità. Queste sono osservazioni di puro buonsenso. Chiunque conosca il sistema sanitario italiano, ha ragione Monti nel definire il sistema sanitario italiano uno dei più bei sistemi al mondo. Però l'osservazione in pandan è che se vogliamo mantenere questo livello di eccellenza del sistema sanitario, bisogna che le risorse siano a disposizione nella misura adeguata. Questo ulteriore taglio da 1 miliardo fa saltare ogni possibilità di pareggio di bilanci. Allora il governo si assume la responsabilità di dire che cambiano i LEA. Quindi annunci il governo ai cittadini: cari cittadini, sapete qual è la novità? Da domani non saranno più gratuite le cure che riguardano la tipologia A, B, C, D, E. Su questo non si può dar torto al presidente Formigoni. Tagli 1 miliardo alla sanità e da qualche parte il danno si vedrà. Detto questo, guardate che la sanità in questo paese, nel centro-nord soprattutto, è una sanità buona. Ma qualcuno ha mai avuto un'esperienza in un ospedale in Francia, in Gran Bretagna? Non parliamo degli Stati Uniti. Io personalmente purtroppo le ho avute, non è che abbia visto tutta sta... No, un conto sono i film e un conto è la realtà. Poi sappiamo che al sud purtroppo ci sono tante tante case di mala sanità, anche qualcuno al nord, ma il sud è un problema complessivamente dato, non solo sulla sanità. ...17:37, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci occupiamo dell'Ilva. Una precisazione, scrive un ascoltatore: dovrebbe smetterla di parlare male del sud, offende le tante persone che come me lavorano seriamente e si impegnano nel sociale. No, guardi, le chiedo scusa se si è sentito offeso. Penso che gli oltre dieci anni di questa trasmissione stiano a dimostrare non solo quanto non abbiamo mai offeso il sud, ma quanto ce ne siamo occupati seriamente, senza derive pseudo separatiste o anche razziste, piene di luoghi comuni. Detto questo, è nei fatti che la sanità al sud funziona peggio che la sanità al nord. È nei fatti che, voglio dire, una classe dirigente del sud è, vuoi anche per la presenza, ma sì, c'è la criminalità organizzata, è una classe dirigente che si è rivelata forse ancora più fallimentare di quella del nord, del centro-nord del paese. Ed è nei fatti che il nostro mezzogiorno, pur con vari sforzi, solo in parte è riuscito a risollevarsi. Ci sono uno sviluppo a macchie di leopardo, ne parliamo ogni anno con lo Svimez e quant'altro. Ma noi non facciamo di tutta un'erba un fascio. Casomai, se proprio vuole che gliela dica tutta, la mia critica va ai dirigenti e quindi alle classi dirigenti del sud, che in buona parte, non sempre, si sono rivelate, e anche a quegli elettori che le hanno votate. Cioè un po' di ribellione delle volte, quando vieni così male amministrato, ci vuole. Lei prende la classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore pubblicata lunedì, l'abbiamo data, e purtroppo lì è inesorabile. Su tutti i parametri che prendiamo, il sud è sempre in fondo. Allora lì occorre che anche l'elettore punisca le classi dirigenti e non punti solo a un risultato a breve di comodità, di voto di scambio e quant'altro. Ci siamo capiti su questo. A proposito di sud e di quanto ci teniamo, l'Ilva. Allora, le novità ci sono appena arrivate, non da Taranto in questo caso, ma da Roma. Il nostro Vincenzo Emiglietta sta seguendo il tavolo sull'Ilva, l'incontro tra governo, parti sociali sull'Ilva, e c'è una novità importante, Vincenzo? Sì, la novità importante è che lo ha confermato lo stesso Presidente del Consiglio, si va verso il decreto legge che sarà varato domani dal Consiglio dei Ministri. E l'aspetto più importante del provvedimento è che si stabilisce che i provvedimenti di sequestro stabiliti dalla magistratura incompatibili con l'attuazione della cosiddetta autorizzazione integrata ambientale perdono efficacia, ovvero quindi si potrà tornare dopo questo decreto al lavoro nello stabilimento dell'Ilva, e sull'attuazione di questo decreto legge sull'Ilva sarà nominato un garante che vigilerà su... È un commissario o un garante? Al momento si parla di garante, logicamente il decreto ancora deve essere messo a punto in serata, il vertice è terminato da pochi minuti, sembra che del governo non scenda nessuno a relazionare, si dà appuntamento direttamente a domani, ma è stato stabilito, ecco, che ci sarà questo decreto, era nell'aria, in questa maniera si sbloccherebbe la situazione. Lo stesso Monti ha specificato che il governo non vuole andare contro la magistratura, ma è in gioco il futuro industriale del paese, concetto questo espresso da Monti ma anche dal presidente di Confindustria Squinzi. Sì, tra l'altro il ministro Passera poco fa ha dichiarato c'è l'urgenza perché si sta bloccando un'intera filiera, si è bloccato anche lo stabilimento di Genova. Cioè, l'Ilva da un lato ha tantissimi fornitori, dall'altro però è lei stessa fornitore di centinaia di imprese in Italia, ecco perché parliamo di un indotto complessivo di 20.000 persone. E se non arrivano i laminati e le produzioni dell'Ilva, si bloccano anche fabbriche che non c'entrano niente con... con l'IVA, fabbriche del centro, del nord e anche del sud del paese, sostanzialmente del nord, perché l'acciaio in Italia e la trasformazione e la lavorazione dell'acciaio è quasi tutto lì. E quindi decreto, forse con commissario, che sbloccherà. Tra l'altro vedo che un'agenzia, per cui forse in serata dovrebbe ripartire l'AFO 5 e l'acceleria 2, quindi qui impianti sotto sequestro. Grazie Vincenzo Meglietta per l'aggiornamento. Raffaella Calandra invece è ancora a Taranto. Buonasera Raffaella. Buonasera Sebastiano, a te nostri ascoltatori. Ho visto intanto una stima dei danni della tromba d'aria, perché ci mancava solo quella ieri all'Ilva, e poi come è stata accolta, se vi sono già reazioni, la notizia che l'Ilva riaprirà. Sì, allora io mi trovo infatti proprio qui alla portineria A, da poco sono usciti gli operai che stavano lavorando. Questo decreto è stato accolto con fiducia, ma non di sicuro con serenità, perché da una parte c'è chi teme che ancora questo braccio di ferro, anche se non è esatto definirlo così, le azioni della magistratura e quelle del governo proseguirà, insomma c'è chi teme che ci possa essere ancora un conflitto tra poteri dello Stato. Dall'altra parte c'è la fiducia di chi pensa che comunque si rientrerà al lavoro nelle aree dissequestrate, ma c'è anche la perplessità che non si riesca a fare in quel tempo stabilito dei 2 anni tutte le indicazioni, diciamo, indicate dalla famosa AIA, e che quindi insomma ci si possa ad un certo punto ritrovare di nuovo in una situazione di precarietà come adesso. Di sicuro però il decreto dà una boccata d'ossigeno agli operai, all'Ilva per intero, e quindi di conseguenza all'intera città, visto che il destino dell'Ilva è praticamente tutt'uno con il destino di Taranto e non solo. E allora c'è fiducia, però torno a dire non del tutto serenità. Di sicuro dovrebbero rientrare al lavoro quei 5.000 che erano stati messi in ferie forzate dopo quest'ultimo sequestro, mentre resterebbe ancora incerta la situazione circa i 2.000 dipendenti per i quali l'azienda aveva chiesto la cassa integrazione, ma quello dovuto a problemi di crisi del mercato, non al sequestro delle aree. Quanto poi ai danni della tromba d'aria, rappresentano un'ulteriore ansia e preoccupazione, perché appunto ci sono stati danni strutturali molto pesanti con conseguenti blocchi della alcune zone come quelle dell'acciaieria 2, e quindi anche qui appunto non si capisce in che modo questo avrà delle ricadute in termini di occupazione. Bisogna considerare che anche al posto dove ieri appunto c'è stato il cedimento della gru con un operaio a bordo, a questo punto anche lì c'è una zona posta sotto sequestro, oltre a quella che era stata già sequestrata dalla magistratura. Quindi diciamo i problemi dell'Ilva di sicuro non si esauriscono, ahimè, con questo decreto, ma di sicuro dà fiducia a chi ci sta lavorando. Allora Raffaella, grazie anche per averci raccontato la situazione, cioè, post tornado. È chiaro che c'è un braccio di ferro, adesso noi possiamo metterla come vogliamo, ma nel momento in cui il governo arriva con un decreto d'emergenza per sospendere la sentenza della magistratura, usa un canale istituzionale per risolvere un braccio di ferro istituzionale. Devo dire una cosa però agli ascoltatori: attenzione, la tutela della salute dei cittadini di Taranto e soprattutto delle zone vicino alla fabbrica dell'Ilva è fuori discussione ed è prioritaria, così come però bisogna occuparsi anche dei lavoratori dell'Ilva. Quello di cui invece, lo dico con estrema serenità, non mi interessa nulla, senza offesa, è la sorte della famiglia Riva. Cioè c'è un'inchiesta della magistratura. Se verrà dimostrato che Riva padre e Riva figlio, che hanno già comprato l'Ilva con una privatizzazione che adesso tutti criticano, insomma, la famiglia Riva pagò un miliardo di euro, 2.200 miliardi di lire, ma se è dimostrato che non hanno fatto gli investimenti necessari, che hanno preso in giro, che c'è stata anche una collusione, un rapporto strano con le autorità sanitarie locali, con il sindaco, con le autorità politiche, tutto questo verrà chiarito dalla magistratura, ed è giusto che la magistratura vada avanti, non sono due cose completamente diverse. Ha ragione secondo me oggi Sergio Rizzo su Corriere della Sera a dire: ma Bruno Ferrante era prefetto di Milano, doveva essere candidato del PD alla provincia, se non ricordo male, al comune, anzi, nello scontro con la Moratti. Ma è possibile che un uomo di Stato si venga messo a fare a dirigere una struttura e con accuse così gravi di avere violato il nome dello Stato? Cioè, c'è una figura peregrina, anche il ruolo di Ferrante, e fatemelo dire, meno male che l'hanno fatto il sindaco, se dovesse essere dimostrato quello che dice la magistratura. Ma... una precisazione, mi scrive un ascoltatore, adesso passiamo alla borsa, le scriviamo da Napoli giusto per portare la conoscenza che qui ci sono strutture sanitarie a livello nazionale, una tra queste è il presidio ospedaliero Santo Bono Pausillipon, dove vengono da tutta Italia a portare i loro bambini per farli curare. Bisogna conoscere le cose prima di parlare. Allora, di nuovo mi scuso se l'ho offesa, ho detto che la sanità al sud spesso, non sempre, ci sono casi di eccellenza a Bari, ce ne sono stati a Palermo, a Napoli, ma spesso, diciamo, funziona peggio, insomma non li ho visti solo io, sarà che sono figlio di un medico, i pazienti meridionali che vengono a farsi curare al nord, abbia pazienza su questo. Detto ciò, è indubbio che vi siano casi di eccellenza anche al sud, ho solo detto che la nostra sanità, soprattutto al centro nord, non mi sembra una cattiva sanità, e andate a vedere altri ospedali, non mi sembra che siamo messi così male e spendiamo esattamente la media europea, leggermente di meno se vogliamo dirla tutta. La borsa, ottima la giornata, bene anche a Madrid, più 1,70, ma la migliore resta Milano. Ma ha scritto anche un ascoltatore spagnolo, dice parlate della Spagna solo quando è in negativo, va bene, però non iniziamo a estendere le critiche anche alla penisola iberica, se no non è più finita. Più 2,81 Milano, benissimo tutte le banche, qui pesa lo spread in senso positivo, è sceso 310 punti, l'asta dei BTP, mai così bassi rendimenti da novembre del 2010, non c'è neanche commento da fare. Popolare Emilia Romagna più 9,91%, Popolare Milano più 8,26%, UbiBanca più 7,5%, Banco Popolare più 4,90%, UniCredit più 4,40%, Intesa San Paolo più 4,17%, Mediolanum più 4%. C'è e poco altro tra le banche, penso Monte dei Paschi guadagna un po' meno, più 2,34%. Andrei subito sulla vicenda Ansaldo CTS e Finmeccanica, più 6,22% Ansaldo, più 6,11% Finmeccanica. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Sì, infatti dopo le banche l'attenzione si è concentrata proprio sui due titoli che hai appena citato. Ansaldo STS sin dalle prime battute si è messa in evidenza, visto che ieri è stata annunciata un'acquisizione. Siemens ha rilevato Invesis Rail, che è una società concorrente di Ansaldo, e il prezzo pagato e soprattutto i multipli con cui è stata valutata la società sono molto interessanti, molto allettanti, e quindi questo ha portato un po' di linfa a tutto il settore. Ad Ansaldo STS. Ansaldo poi è controllata da Finmeccanica e conseguentemente appunto il progresso del 6% di Ansaldo ha spinto all'insù anche le quotazioni di Finmeccanica, che peraltro già godeva di una buona notizia. Ieri infatti l'azienda ha collocato un bond da 600 milioni che è stato ben accolto dagli investitori e dal mercato. Ancora tra i titoli delle banche abbiamo già detto bene anche oggi tutti gli energetici. Cito Enel Green Power più 4,30, ma non solo, abbiamo visto A2A più 2,24, Eni più 2,12, ma bene soprattutto Telecom. Abbiamo visto Telecom crescere molto oggi, è chiuso con un 4% di rialzo. Sì, infatti più 3,95% sul finale, le azioni si sono portate a 0,71 euro. Secondo il Messaggero di quest'oggi va avanti il progetto in cui si sta studiando l'eventuale ingresso da parte della Cassa Depositi e Prestiti, in qualche modo poi tutto da vedere, nella rete, che quindi potrebbe essere scorporato da parte della società. Ovviamente da qui al 6 dicembre, giorno in cui si riunirà il consiglio di amministrazione della compagnia telefonica, continueranno a girare mille ipotesi, ma due giorni fa Bernabé in Bocconi ha parlato molto chiaro e ha detto che verranno prese delle decisioni molto importanti nell'ambito del consiglio di amministrazione. Poi è tutto da vedere a cosa si riferisse, visto che la Telecom ha in ballo molte decisioni da prendere, che vanno dalla cessione di Telecom Italia Media, la società che controlla la 7, all'eventuale scorporo della rete, all'eventuale ingresso nel capitale, chissà, dell'egiziano Naguib Sawiris, che però sembra un po', secondo le ultime indiscrezioni, un po' più difficile da effettuare. Di sicuro comunque qualcosa succederà, il mercato ci scommette e per questo ha fatto salire le azioni del 3,9%. Su Autogrill invece c'è notizia, nel senso che Autogrill ha firmato un accordo importante relativamente al mercato francese, no? Sì, esatto. Cioè, è un accordo che già esisteva in America. Esatto, infatti ha rafforzato la partnership con Burger King in tutta Europa, dalla Francia alla Svizzera alla Polonia, quindi questo ovviamente ha dato là degli ordini in acquisto, i titoli hanno dunque concluso in progresso del 2,6%. Allora, benissimo tutti, guardate, di negativo oggi c'è neanche Ferragamo, che ha chiuso 0,00. Tutti hanno guadagnato oggi in borsa, i migliori li abbiamo citati, Pirelli più 3% e quant'altro, i migliori e peggiori in assoluto, Seat pagine gialle, pure lei si risveglia, più 23-40%, primi sui motori più 10-18%, UbiBanca più 7,5%, chiedo scusa per l'ignoranza ma non so cosa faccia primi sui motori, Screen Service Broadcasting meno 5,46%, Unione Alberghi Italiani meno 5,30%. Dimmi Eleonora. No, non stavo parlando. Ah, no, scusami. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. E allora ci occupiamo adesso di ricerca, di selezione, di investimenti in ricerca e sviluppo e poi del racconto di chi è caduto nel punto più basso forse un uomo possa cadere, si è ritrovato ad essere un clochard, un vagabondo, ha saputo risorgere, perché vorremmo dare anche un messaggio a chi in questo momento è in estrema difficoltà, vedi anche tutta l'iniziativa Disperati Mai, pensa di non potercela fare più, ci si può sempre risollevare nella vita. Prima di arrivare a questo, però, fatemi introdurre il tema della ricerca e dell'innovazione, visto che domani sarà la settimana, l'anno di Confindustria, la giornata dedicata alla ricerca e innovazione, decima giornata di Confindustria, parlando di come non si debba fare merito in questo paese. Allora, io in realtà chiedo alla regia, prima di arrivare, vorrei proprio non tragge più, perché... Abbassare, non tragge più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, non tragge più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tutte più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu. Allora, come non si fa ricerca, come non si fa selezione? Beh, per esempio come ha fatto la Facoltà di Architettura di Firenze, dove per assegnare una docenza annuale di urbanistica l'ha affidata a un laureato in filosofia e a un poeta insegnante di scuola elementare specializzato in paesologia. E secondo il candidato escluso, Alessandro Rizzo, architetto e dottore di ricerca, non avrebbero i requisiti richiesti dalla legge. Il bando era per due cattedre per insegnamenti in materia di urbanistica. Ora io capisco che l'umanismo, la filosofia possono entrare con l'urbanistica, però insomma Allora, uno è laureato in filosofia, ha conseguito un dottorato di ricerca con una tesi su Heidegger ed Hegel. Ora io non so tra tesi, antitesi, sintesi cosa c'entri l'urbanistica. E l'altro non è neppure laureato, essendo un insegnante di scuola elementare, ed è impensabile che la laurea non costituisca un requisito minimo. Complimenti alla Facoltà di Architettura di Firenze, poi magari ci spiegherà, contesterà, correggerà, rettificherà. E invece domani è la decima giornata della ricerca e innovazione di Confindustria, una porta sul futuro, andrà in onda anche su Rai 1 domani sera, in seconda serata. L'obiettivo è far comprendere all'opinione pubblica il quanto sia vitale l'investimento e il lavoro dei ricercatori per il paese. E ne parliamo con chi è vicepresidente di Confindustria Trento per la ricerca e innovazione, vicepresidente della Fondazione Bruno Kessler, nonché amministratore delegato del gruppo Aquafil, che vuol dire gruppo leader al mondo nella produzione di fibre sintetiche, il nylon 6 per capirci, quello usato per la moquette, e fa 500 milioni di euro, mezzo miliardo di fatturato, in oltre 7 paesi, 13 stabilimenti, 2000 dipendenti, Italia, Germania, Slovenia, Croazia, Stati Uniti, Thailandia e Cina. Ha vinto il premio di Confindustria Imprese per l'innovazione quest'anno e il premio Ernst Young nel 2011. Dottor Giulio Bonazzi, buonasera. Buonasera a tutti e a tutti gli ascoltatori. Bonazzi, mi dica una cosa, lei avendo una grossa esperienza come manager, come amministratore delegato del gruppo Aquafil, al di là di molta retorica che si sente, occorrono più investimenti in ricerca e sviluppo, vabbè, lo sappiamo tutti, sappiamo anche però che le imprese italiane quando sono piccole sembra che investano meno in ricerca di quanto fanno perché non lo mettono a bilancio. Ma in realtà ci sono tante attività che sono di ricerca e sviluppo che non vengono messe a bilancio, finiscono in altre voci. Però voi che cosa chiedete di realistico? Cioè il collegamento con il mondo dell'università? Ma noi chiediamo delle cose che poi sono semplici e che in altri paesi avvengono in maniera molto più puntuale e molto più efficace. Prima di tutto un miglior collegamento col mondo della ricerca, che in Italia è rappresentato soprattutto dalle università. Questo è un primo punto che secondo noi è irrinunciabile. In provincia di Trento ci stiamo lavorando e forse qualche piccolo risultato lo stiamo anche ottenendo, però ovviamente questo deve essere valido per tutta l'Italia. E poi ovviamente con i centri di ricerca esistenti, perché non è che in Italia non si faccia ricerca e non esistano dei centri di ricerca, anche lì noi pensiamo che sarebbe giusto che i centri di ricerca stessi siano valutati in funzione di quello che si definisce trasferimento tecnologico, quindi del rapporto col mondo industriale e della ricerca comune che si riesce a fare assieme al mondo industriale. Quando si parla di ricerca e sviluppo, di collegamento con l'università, a me viene in mente anche la cosiddetta fuga dei cervelli. A noi costa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Questa è la cifra del capitale che hanno generato 243 brevetti di italiani, di cervelli italiani, che sono andati all'estero, cioè li hanno depositati all'estero. Allora, non è poca cosa, questi sono solo i primi 50. Nel rapporto studente, laureando, specializzando, università, mondo del lavoro, voi vorreste che alcuni di questi progetti magari venissero sviluppati all'interno di un'attività di stage, di internship, la chiami come vuole, dentro l'azienda, le imprese? Allora, prima mi permetto di dire una cosa. Non bisogna scandalizzarsi se i ricercatori girano. Io credo che sia normale e anche doveroso che un ricercatore giri il mondo. È giusto che il ricercatore italiano vada all'estero, poi magari che torni anche indietro, è giusto che il ricercatore straniero venga in Italia. Quindi sarebbe bello vedere anche quanti ricercatori stranieri vengono in Italia, ahimè sicuramente molto meno di quanto non vadano gli italiani all'estero. Sì, lei ha toccato un altro punto che è fondamentale e che all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, succede come dato di fatto per default, soprattutto nelle discipline tecniche. Se uno studente non fa almeno un progetto di ricerca o uno stage presso un'azienda, non prende la laurea. Allora, perché non addirittura metterlo che nel corso di laurea uno stage o un progetto di ricerca non valga come un esame o non valga per definire quello che è magari il voto che si prende alla fine quando si va a sviluppare la tesi? Questo secondo noi sarebbe un'altra cosa interessantissima. Le faccio un esempio. Noi siamo in America, vicino ad Atlanta, dove c'è la Georgia Tech University, che è la prima o la seconda università americana per l'ingegneria, 22.000 studenti. Ecco, loro ovviamente è un'università, in America si paga, non è così relativamente poco costoso come da noi il corso di studio universitario, però all'interno della retta è previsto anche il costo dello stage e oggi loro danno più voti a chi fa uno stage all'estero, perché ovviamente anche gli Stati Uniti oggi sentono il bisogno di esportare e quindi... Cioè, se noi portiamo uno studente della Georgia Tech University a fare uno stage di 6 mesi in Italia, paghiamo solo il pocket money, quindi quello, cioè, che le spese vive, diciamo, sì, spese, l'argent de poche, vive, esattamente, però sai, per noi è 18 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Una risposta che devo dare a molti ascoltatori sulla vicenda, sulla affermazione per quello che riguarda il tema del Burger King e del McDonald's. Attenzione, non è un giudizio sulla qualità del cibo, ma è un giudizio sul fatto che obiettivamente con quel tipo di cibo e con quel prezzo possono mangiare anche persone che hanno meno soldi. Non è mio compito, non sono un nutrizionista. Dico semplicemente che con tutte le volte che abbiamo difeso l'attività di Carlin Petrin di Slow Food, è giustissima, ci sono vari settori, vari prezzi. Slow Food fa un'attività meritoria, notevolissima, per quello che riguarda il tema dei presidi di carattere agricolo anche sul territorio, mentre da questo punto di vista l'industria alimentare svolge un compito molto importante per quello che riguarda anche i prezzi. Allora, possono esistere tutti e due, poi ognuno sceglierà di mangiare quello che vuole, e questa fa parte della libertà più totale. Adesso però vorrei occuparmi di un altro tema, perché oggi sul sito del Sole 24 Ore era presente una notizia molto importante che riguardava una storia molto bella che io vorrei in qualche modo raccontarvi. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Vivere è passato tanto. Allora, la storia è raccontata benissimo oggi sul Sole 24 Ore di una persona che perde il lavoro. Io vi invito a leggerla, perché sul sito del Sole 24 Ore perde il lavoro e perde il lavoro nel 2004, diventa un clochard, diventa un uomo di strada, un vagabondo, un barbone, si risolleva e nel 2005 fonda insieme ai compagni di strada, altri clochard, un sindacato spontaneo, clochard alla riscossa. Si mettono assieme, gestiscono anche un bar, aprono anche una mensa, un agriturismo, e dedicano a questo tipo di sindacato tutti i proventi dalla vendita. Dalla vendita di che cosa? Non solo di quello che stanno facendo, ma dalla vendita anche di un libro. Il libro si chiama Io sono nessuno, è edito da Baldini e Castoldi, e da questo punto di vista comprato, perché è un libro bellissimo, perché insegna anche come ci si risolleva dai momenti peggiori. Vivere e non essere mai contento, vivere come stare sempre al vento. È una rete quella che lui ha creato per far lavorare tanti senza tetto e offrire loro un futuro. ed è una storia che noi vogliamo raccontare, visto che ieri abbiamo raccontato quella di Lucia da Roma, delle, ciò che ne è stato, della solidarietà che è nata. Ed ecco perché ringrazio Wainer Molteni per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. No, io ringrazio voi e mi scuso ancora perché... Vabbè, andiamo avanti perché abbiamo già... siamo in un periodo un po' così. Senta, Molteni, mi dica una cosa, nel 2004 lei cosa faceva? Nel 2004, fino al 2004, io ero direttore personale di una catena di supermercati. Poi cosa succede? Poi succede che l'azienda per la quale lavoro chiude per bancarotta fraudolenta, viene chiusa per bancarotta fraudolenta e non ho avuto il tempo di potermi reinserire perché comunque non avevo appigli familiari solidi che mi potevano garantire un aiuto concreto, a tanta gente non ho proprio chiesto aiuto perché non è nel mio stile farlo e sono finito per strada convinto che le istituzioni avevano il dovere di risollevarmi da quella situazione in cui mi andavo a trovare. Mi scusi, nel 2004 lei quanti anni aveva, se posso chiederglielo? 36. 36. Aveva figli, era sposato? No. Quindi lei perde lavoro perché? Perché bancarotta fraudolenta di che tipo, mi scusi? L'azienda ha chiuso perché a causa era molto esposta nei confronti di un istituto bancario che nel 2004 ha avuto problemi. Quindi si è trovata in difficoltà e poi alla fine il proprietario è fuggito con la cassa. Va bene, nel 2004 lei, che faceva il dirigente personale, così si ritrova senza lavoro. Che le succede? Succede che, cioè, lei che fa, era poi in piena esplosione crisi, se possiamo chiamarla così, le aziende non assumevano, oppure tante aziende mi rispondevano nel momento in cui mandavo l'email con il curriculum che il mio profilo era troppo qualificato, quindi poi mi trovavo a non avere chance, a non avere sbocchi. E lei che cosa fa a quel punto? Cioè, diventa un clochard, un vagabondo? Assolutamente sì, divento un barbone. Un barbone, sì. Ecco. No, siamo in Italia, io sono orgoglioso del nome Barbone, perché io dove dormiva, tanto in gamba. Dove dormiva lei, Molteni? Giro. Dormivo in Galleria De Cristoforis. Galleria De Cristoforis, chi conosce il centro di Milano, vuol dire Piazza San Babila. Senta, se mi rendo conto non vorrei infierire, ma nel momento in cui lei, da dirigente del personale, vita normale e quant'altro, va a dormire in un sacco a pelo in Galleria De Cristoforis. Sì. Beh, lei avrà pensato molte volte anche, immagino, insomma, alla sua situazione. Ma assolutamente, ogni secondo. E com'è che lei si è risollevato? Perché questo mi interessa poi, non voglio che sicuramente guardare dal buco della serratura la sua vita, ma... No, ma ci mancherebbe, l'ho raccontato in un libro, quindi non è un problema. E mi dica, e cos'è? Perché a me interessa la molla in questo caso, sì. Perché sa, c'è molta gente che non arriva al livello in cui è arrivato lei, ma che ci scrive a disperati mai, sms, mail. Guardi, che molla, non vede più futuro, molla vede un muro. La molla che ha fatto scattare il tutto è la stessa molla che noi stiamo offrendo nella fattoria di Cosciata della Riscossa che abbiamo aperto a giugno. È la molla della spinta, cioè io faccio parte della categoria cosiddetta dei nuovi poveri, che non hanno nessun altro problema se non vivere un momento di difficoltà, quindi gli si dà il minimo appiglio e ne escono da soli. Noi lo stiamo provando, lo stiamo portando avanti, quindi è fattibile, come è successo a me è stato dato un appartamento incomodato d'uso e da lì è cominciato tutto, è cominciata la raccolta di cibo e vestiti da distribuire direttamente in strada e senza tetto, poi da lì abbiamo messo insieme il progetto Serravalle Pistoiese, che è nato a giugno e che continua tuttora, ma tutto è partito da lì, dall'appiglio. L'appiglio per me è stato un appartamento che mi ridonava la dignità, la condizione umana di persona regolare. Okay? Che mi dava la possibilità di avere una residenza, perché io quando sono finito in strada, il brutto è che quando uno ha una casa e una residenza magari non controlla mai proprio la scadenza del proprio documento, oppure si accorge che è scaduto dopo un po'. Quando finisci per strada e ti scade un documento e non lo puoi più rinnovare perché non hai residenza, non puoi più fare nulla, sei tagliato fuori dal sistema sanitario nazionale perché non ti spetta l'assistenza medica. sei tagliato fuori da, dalle liste anche solo per votare, sei tagliato fuori dal servizio sociale nazionale perché se non hai una residenza almeno di 2 anni in una città non puoi usufruire dei servizi sociali della città, cioè questi sono paradossi ma è realtà. Ecco Molteni, lei ha mai pensato di farla finita? No, assolutamente, ma mai, ma assolutamente, ma ci mancherebbe altro, ma lo sapevo che si poteva venire fuori, io parlo in maniera collettiva perché comunque il 2004 per me è stata la svolta perché sono nati i clochard alla riscossa, quindi noi abbiamo, a noi quello che è arrivato, cioè il fatto di poter uscire dalla strada, ce lo siamo guadagnato, noi ecco, l'abbiamo cercato, l'abbiamo provocato. Ecco, mi dica una cosa allora, sì. Nell'ultimo minuto che abbiamo, sì, a tutti quelli che ci scrivono e che vedono, ripeto, l'orizzonte restringersi e diventare un muro, sì, lei cosa si sente di dire, visto che lei in fondo, nel punto più basso, ci è arrivato? Certo. Un consiglio, glielo dà. E più di così non si può. Quando dico, si ma un consiglio... strada resta soltanto, sì, la vita. Ok, un consiglio glielo dà a queste persone? Combattete, combattete, combattete perché la vita è l'unica cosa che vi resta, oltre ai diritti che devono essere rispettati. Quindi l'essere umano, il cittadino italiano, ha i diritti e doveri, questo è garantito. Però per riuscire a espletare i doveri bisogna prima che vengano riconosciuti i diritti. E quindi combattete? E quindi io invito veramente tutti a pensare al fatto che la condizione di povertà o la condizione di estrema difficoltà in cui si trova una buona parte del paese è una condizione che può finire perché comunque rimboccandosi le maniche, credendo nel futuro, ci si la può fare veramente. Wainer Molteni, ex Barbone, grazie. Grazie a lei. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.